pagato sicuro una missiva, ho evitato 42 milioni di morti. Se tu l'avessero pagato sicuro una missiva, ho evitato 42 milioni di morti. Se tu l'avessero pagato sicuro una missiva, ho evitato 42 milioni di morti. Se ti l'avessero pagato sicuro una missiva, ho evitato 42 milioni di morti.